Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria lo faremo nella seconda ora del rapporto della Banca d'Italia sulle sofferenze bancarie, ossia sui crediti che le banche italiane non riescono o difficilmente potranno riuscire a riavere indietro, e mi riferisco al dato del più 24,6% delle sofferenze bancarie, che porta il complessivo, anche se il dato è ancora provvisorio ed è riferito a dicembre, a 156 miliardi di euro. Lo dico perché spesso questo è il motivo per cui le banche giustificano un calo nei prestiti. In realtà le due cose sono parzialmente speculari, nel senso che è chiaro che quando le banche hanno un aumento delle sofferenze ci sia maggior prudenza nell'erogare credito. Non può essere però l'unica spiegazione per un calo che fotografa oggi la Banca d'Italia nei prestiti al settore privato del 3,8%, ma è il dato medio. In realtà continua questa tendenza, per cui i prestiti alle famiglie scendono, ma scendono molto meno rispetto ai prestiti alle imprese. Alle famiglie meno 1,2% nei 12 mesi del 2013, e qui sì, si può dire che c'è anche un calo probabilmente dei mutui dovuto a un minor numero di compravendite nel settore immobiliare. I prestiti alle società non finanziarie, quindi alle imprese di qualunque genere e forma, sono diminuiti del 5,3% nel 2013. Hanno fatto meno 6% a novembre. Calano però i tassi per i mutui alle famiglie, passati dal 3,86% di novembre al 3,80% di dicembre. I tassi di interesse invece per le imprese sono pari al 4,36% per un prestito sotto il milione di euro. Per prestiti sopra il milione di euro sono al 2,82%, sono un po' aumentati come tassi rispetto al mese di novembre. Di questo parleremo, dicevo, nella seconda ora del programma, perché resta un tema forte, a mio avviso, del rapporto banche-imprese. Fermo restando che nessuno vuole vedere tutto bianco, tutto nero, le banche stanno fronteggiando delle sofferenze quasi a record, quindi appunto 156 miliardi di euro a dicembre del 2013. Parliamo anche in apertura dei dati sulla produzione industriale, e nonostante le schiarite che vede il governo, ci sono dei segnali positivi sul cosiddetto superindice dell'OCSE per quello che riguarda i paesi aderenti, però anche per quello che riguarda l'Italia. Il dato sulla produzione industriale diffuso dal Centro Studi Confindustria segnala un più 0,3% a gennaio, ma che è in calo ancora rispetto a gennaio del 2013, più 0,3 infatti rispetto a dicembre. Rispetto a gennaio del 2013 siamo a un meno 0,1%, il che vuol dire che l'avvio, diciamo, della ripresa, c'è stata una piccola ripresa a gennaio rispetto a dicembre, ma su un anno prima siamo ancora con il segno meno ancora. Per quello che riguarda il dato sulla spending review, vabbè, abbiamo avuto le dichiarazioni del governatore della Banca d'Italia Visco durante il 20° congresso Assium Forex. La Svizzera, tratteremo anche della Svizzera, perché la maggioranza, seppur di poco, con cui ha vinto il sì all'introduzione di quote contro l'immigrazione di massa, introduce un nuovo articolo nella Costituzione svizzera, ma soprattutto rischia di far ridefinire i rapporti con l'Unione Europea. La Commissione si è definita rammaricata di un referendum che va contro il principio della libera circolazione delle persone tra l'Unione Europea e la Svizzera. C'è in ballo anche la trattativa sul rientro dei capitali. Cercheremo di capire se vi possono essere delle conseguenze anche su questo. Rientro dei capitali è sbagliata come frase. L'accordo con la Svizzera, diciamo, per quello che riguarda i capitali lì illegalmente depositati. La borsa come va? Invariate, devo dire, sostanzialmente tutte le borse europee, meno 0,1% Milano, più 0,1 Parigi, meno 0,1 Francoforte, più 0,20 Londra, meno 0,20 l'America. Tra i titoli segnaliamo Buzzi Unicem più 4,12, Ferragamo più 2,60, Monte dei Paschi più 1,70% e ancora ST Microelectronics più 1,5%. Autogrill più 1, Saipem più 1, Pirelli più 0,90. Invece tra chi perde, Mediolanum il 3,70, Telecom il 2%, Fiat meno 1%, come la Popolare Emilia Romagna. L'ultimo numero per da dare prima di iniziare con le notizie in breve è quello per i vostri sms: 349-238-6666 e la pagina di Focus Economia su Facebook. Celebra un anno, un 2013 da record, è il finanziere George Soros, considerato uno dei più grandi finanzieri investitori al mondo. Pensate che il suo hedge fund, che si chiama Quantum, che è praticamente un modello, un mito per tutti quelli che lavorano nel mondo degli hedge fund, ma non solo, ha fatto guadagnare l'anno scorso 5,5 miliardi di dollari, segnando la seconda miglior prestazione da sempre. Si è ripreso la prima posizione nella classifica dei fondi di maggior successo di tutti i tempi. Da quando è stato creato il fondo Quantum ha garantito agli investitori profitti per 40 miliardi di dollari dal 1973. E bravo Soros, che è anche un grande filantropo, va detto. Comunque insomma, 5 miliardi e mezzo di dollari di guadagno, il secondo guadagno da sempre per il fondo Quantum. Per quello che riguarda invece l'Italia, il Tesoro valuta positivamente le iniziative anche di natura consortile di operatori del settore a proposito delle bad bank, cioè il fatto che le banche italiane, in vista degli stress test, possono creare una bad bank dove far confluire tutti i crediti difficilmente esigibili o sofferenze, anche di carattere consortile, però ha detto l'importante è che non vengano utilizzate risorse pubbliche nazionali o a livello europeo. Le nostre infrastrutture. Oggi si è tenuta la Mobility Conference Exhibition a Milano e si è parlato anche e soprattutto di Malpensa. Perché? Perché c'è una dichiarazione interessante del numero uno delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, che dice che a Malpensa ci sono più treni che aerei. E c'è una strana vicenda: se i milanesi vogliono mantenere sia Malpensa che Linate, sarebbero gli unici al mondo. Le ferrovie, ha detto Moretti, non stanno discutendo con Etihad ma con Aeroporti di Roma per fare collegamenti ad alta velocità tra Fiumicino e Roma, Firenze e Bologna. Lo stiamo facendo, ha aggiunto Moretti, per tutti gli aerei, perché gli intercontinentali arrivano secondo onde mattutine, pomeridiane e serali, quindi è un servizio all'aeroporto. Noi stiamo discutendo non con Etihad ma stiamo discutendo con Aeroporti di Roma in particolare per fare dei collegamenti da Fiumicino a normali altre città, Roma, Firenze e Bologna, credo peraltro per tutti gli aerei, perché poi gli intercontinentali arrivano tutti quanti secondo onde mattiniere, pomeridiane e serali tutti quanti, ed è un servizio all'aeroporto. Poi se ci sono anche dei rapporti più diretti, ma in quel caso vuol dire che loro devono mettersi dei soldi, di Alitalia, clienti come tutti gli altri. Mi pare che vi sia ancora questa strana vicenda che i milanesi vogliono mantenere sia Malpensa che Linate. Sono gli unici al mondo, insomma. E poi un'idea che non so, immagino che sia percorribile se la sostiene Moretti, che ha detto per Linate l'idroscalo può diventare la seconda pista e smistamento, che l'attuale scalo merci delle Ferrovie dello Stato potrebbe diventare la stazione che collega Linate a Venezia. Faccio notare che in altri paesi, in primo luogo in Francia, questo è già realtà, cioè chi deve andare in aeroporto ha di solito, negli aeroporti principali, ha la stazione dell'alta velocità che ferma all'aeroporto, e questo è chiaro che crea il miglior commuting possibile al mondo: atterri e prendi l'alta velocità, oppure prendi l'alta velocità e poi decolli. Comunque, sentiamo anche Moretti sull'idroscalo. C'era l'idroscalo che è stato fatto per gli idroscali, per gli idrovolanti. È una seconda pista. Se andate in qualsiasi paese al mondo, si fa un allungamento verso lo scalo di smistamento e si fa la stazione nuova sotto di alta velocità che arriverà a Venezia. Oppure si sceglie di fare Malpensa, si abbandona la parte Linate, ci sono già i treni, ci sono tutti i collegamenti, abbiamo un progetto che fa il quadruplicamento a Gallarate, si fa la stazione dentro Malpensa e si fa lì. Ma decidiamo, per cortesia, decidiamo, e non veniamo a raccontare che poi è un problema anche degli stessi politici o della gente, dei tecnici come me, che devono fare queste cose. È un problema di cose che devono nascere da quello che è il gruppo dirigente dei luoghi dove si devono pigliare queste decisioni, che non possono essere incarnate solo in una persona e scaricate su di loro. Allora, diciamola tutta, Moretti ha ragione da vendere, nel senso che lui dice... Io come Ferrovie dello Stato posso fare l'alta velocità a Gallarate per Malpensa, oppure la posso fare, diciamo, a smistamento per Linate. Però le autorità politiche, anche e soprattutto quelle regionali, quindi il presidente Maroni, il sindaco Pisapia e poi a livello anche di politica nazionale, decidono se l'alta velocità deve arrivare a Malpensa o deve arrivare a Linate. È chiaro che Moretti non può farla arrivare in tutti e due gli aeroporti, e poi che senso avrebbe? Questa è una decisione politica che va presa, dopodiché si chiede alla componente tecnica e quindi alle Ferrovie dello Stato di fare lo snodo alta velocità a Gallarate, oppure appunto vicino all'idroscalo, se si decide che Linate è invece il vero aeroporto di smistamento. Mi sembra un ragionamento ineccepibile che ancora una volta mette in luce le difficoltà che hanno i nostri amministratori a qualunque livello nel prendere decisioni che scontenteranno qualcuno. Non ho dubbi che se scegli Malpensa scontenti qualcuno, se scegli Linate scontenti qualcun altro, ma bisogna decidere, perché in questo momento siamo nella peggiore delle situazioni, cioè l'alta velocità non si sa ancora, e mi riferisco chiaramente alla tratta Milano-Venezia, se dovrà essere snodata con l'aeroporto a Malpensa oppure a Linate. Non è un dettaglio, E ha risposto in maniera un po' piccata invece il ministro dei trasporti Maurizio Lupi a Moretti. Ha detto: con Moretti lavoriamo molto intensamente perché non si realizzi solo l'alta velocità, ma ci si occupi anche di trasporti regionali affinché migliorino. Cioè la risposta è stata: si occupi dei treni regionali, il governo darà l'indirizzo anche sugli aeroporti. Lupi ha aggiunto: Ferrovie dello Stato deve lavorare molto sul tema dei treni regionali, per quanto riguarda gli aeroporti gli indirizzi li dà il governo, che non si occupa solo di ferrovie. Ha ragione Lupi, però dia il governo questi indirizzi. C'era il vecchio piano aeroportuale, vecchio si fa per dire perché fu avanzato dal ministro, dall'allora ministro Passera. Vorremmo capire se è ancora valido, se non è ancora valido, che cosa volete fare, perché è inutile dire a Moretti: sì, tu occupati dei regionali, ha ragione, devo occuparsi anche dei treni regionali, ma vogliamo decidere tra Milano e Malpensa, tra Linate e Malpensa? Cos'è, 15 anni che tocchiamo questo tema? Vabbè, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso ci occupiamo della produzione industriale italiana nell'intero 2013, per capire soprattutto non che anno è stato, lo sappiamo tutti che il 2013 è stato un anno di sofferenza, ma come si è chiuso, con che velocità o invece con che rallentamento siamo entrati nel 2014, anche perché non è un dettaglio viste le attese del governo sul 2014. Io le chiamo più speranze che attese, e invece i timori, la prudenza di molti altri organismi. Quindi parliamo di Italia e di industria italiana, anche la pagina di Focus Economia su Facebook, oltre che il 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, intanto una dichiarazione proprio sulla cronaca del ministro Zanonato, che ha riferito in aula alla Camera sul caso Electrolux e ha confermato la volontà del governo di non consentire il trasferimento in altri paesi come la Polonia degli stabilimenti Electrolux. conto nel corso della prossima settimana, e sempre che i sindacati non chiedano di approfondire tutti gli argomenti, quindi il giorno 17, che sarà lunedì prossimo, di avere un quadro più preciso, perché la stretta alla quale vogliamo arrivare è una stretta in cui l'azienda, questa azienda così importante nel nostro paese per il numero di occupati, ma anche per qualcosa di più importante del semplice numero degli occupati, per il grande indotto che ha in alcune realtà, perché questa azienda non chiuda nel nostro paese neppure uno dei centri di produzione. Quello, diciamo così, che in qualche modo è stato prospettato come il più a rischio, è quello di Porcia, ma mantenga qui un'attività produttiva che è uno dei grandi comparti dell'attività industriale italiana, quello dell'elettrodomestico. E fin qua siamo alle dichiarazioni di intenti, agli auspici, perché è quasi eufemistico il ministro Zanonato nel dire uno di quegli stabilimenti. No, su Porcia c'è una crisi vera e propria, e un'azienda che chiede di ridurre i costi, non è un'ipotesi di scuola. Dopodiché siamo tutti d'accordo, se bastasse dire non vada in Polonia, cosa facciamo? Le blocchiamo le frontiere? Invece sulla necessità di agganciare il treno della crescita, e sempre a margine della Mobility Conference, è intervenuto anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che ha detto: attenzione, anche attraverso gli investimenti infrastrutturali riusciremo a agganciare il treno della crescita per restare in Europa non solo sulla carta, ma anche nella sostanza. L'Italia ha capito che finalmente bisogna ridare all'industria il ruolo e la considerazione che le sono propri. Ma promuovere l'industria significa mettere in condizione gli imprenditori di fare bene il loro lavoro, comprendendo e sostenendo nelle scelte di innovazione, modernizzazione e qualificazione. E le infrastrutture giocano in questo senso un duplice ruolo. Da un lato sono necessarie e funzionali all'efficienza delle imprese, dall'altro la realizzazione delle opere pubbliche è essa stessa espressione di una domanda pubblica che può guidare e orientare la produzione industriale. Migliorare la qualità delle nostre infrastrutture, dei materiali, della dotazione tecnologica contribuisce a perseguire e raggiungere obiettivi strategici e trasversali. Realizzare opere pubbliche nel nostro paese non è cosa facile, anzi è estremamente difficile. Le criticità restano sempre e comunque tutte in piedi. Penso ai tre grandi temi sui quali siamo quotidianamente impegnati per una soluzione: pianificazione e programmazione efficienti, semplificazione delle procedure, partecipazione dei privati alla realizzazione delle infrastrutture. Il legislatore ha emanato negli anni provvedimenti che testimoniano una sostanziale discontinuità nelle scelte. Si è passati dai grandi programmi infrastrutturali, concentrati solo sulle grandi opere, alla scelta di realizzare opere piccole e manutentive a carattere locale. Ma il tutto è stato fatto spostando di continuo le stesse risorse, creando una sostanziale incertezza per gli investitori, per le imprese, per la collettività. Allora, vediamo com'è andato il 2013 e soprattutto come siamo entrati nel 2014. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, oggi l'OCSE, attraverso il superindice, dice che continua a segnalarsi una variazione positiva in termini di slancio dell'attività economica nell'intera area euro. Il dato è relativamente buono per l'Italia, la media dell'area euro fa 101,1 punti, l'Italia 101,3 e Francia. In Germania invece c'è un consolidamento, cioè ferma. Però oggi abbiamo avuto i dati sulla produzione industriale. Per quello che riguarda il 2013, l'Istat ha fotografato una produzione industriale che è scesa del 3% rispetto al 2012 ed è calata anche a dicembre rispetto a un anno prima, meno 0,7%. Voi avete fatto le proiezioni invece sull'inizio anno, più 0,3% la produzione industriale, ma meno 0,1, più 0,3 rispetto a dicembre, ma meno 0,1 rispetto a gennaio 2013. La domanda è molto semplice: come siamo entrati nel 2014? Ancora col freno a mano tirato oppure c'è una, seppur non fortissima, ma ripresa dell'attività? La ripresa dell'attività è lenta, molto faticosa. Il dato di dicembre è decisamente peggiore delle attese, anche se ci si aspettava un calo, ma non di quell'intensità, il che testimonia come i fattori di domanda siano non ben distribuiti nell'economia, e c'è, diciamo, una parte del sistema che fa ancora molta fatica a ripartire o addirittura, appunto, va indietro. Questo vale ovviamente anche per l'inizio del 2014, abbiamo stimato un più 0,3 gennaio su dicembre, che comunque è una dinamica molto molto contenuta se consideriamo appunto il calo che c'è stato il mese precedente. I fattori di freno rimangono quelli già più volte elencati: la difficoltà del credito, la domanda interna che ha smesso di scendere, ma certamente non sta ripartendo con vivacità, una condizione di mercato del lavoro che scoraggia le famiglie dall'intraprendere in spese impegnative. Quindi tu dici c'è comunque una ripresa, però sicuramente non è così forte. Tra l'altro guardavo il vostro dato, c'è un incremento, se ho ben visto, la componente ordini del PMI manifatturiero, un incremento più significativo a gennaio, anche se rallentamento rispetto al picco di dicembre. C'è un buon andamento degli ordinativi esteri e quindi della domanda, grazie a maggiori commesse provenienti soprattutto dagli Stati Uniti. Allora, cioè, con questi numeri, Luca, per arrivare a una ripresa definibile come tale, che cosa dovremmo fare nei prossimi mesi? Scusami. Beh, aggredire alcune delle debolezze che ho elencato prima, quindi anzitutto l'aspetto del credito. Ci sono state fatte alcune misure importanti come il pagamento degli arretrati a pubblica amministrazione, bisogna proseguire su questo fronte accelerando e probabilmente mettendoci più risorse, e inoltre bisogna realizzare quel potenziamento del fondo di garanzia sui crediti alle imprese che è stato, diciamo, già messo nella legge di stabilità. Occorre puntare di più sugli investimenti interni, sia quelli delle imprese sia anche quelli pubblici, proprio per rilanciare la domanda interna. Quindi bisogna agire su questi elementi. È ovvio che poi bisogna cercare di migliorare la competitività del sistema paese, sia con elementi strutturali sia, diciamo, con elementi più di costo del lavoro, in termini di cuneo fiscale contributivo. Ecco, da quello che poi voi analizzate mi sembra però chiaro che la domanda estera va bene, questo lo dico, adesso non voglio tornare ogni volta sulla polemica sull'euro, siamo tutti d'accordo che un euro non a 1,36 ma magari a 1,1 col dollaro ci farebbe più comodo a tutti e in particolar modo l'Italia, il che non vuol dire eliminare l'euro, ma non è che decidiamo noi quanto vale l'euro. Se l'America continua a fare una politica di dollaro debole, l'euro resta a quota 1,36, che a mio avviso è troppo alta, andrebbe meglio 1,1, 1,2, 1,1. Ma dico, non mi sembra che in questo momento il problema sia l'andamento della nostra produzione industriale come effetto della domanda estera, e quindi cos'è? È ancora il tema della domanda interna? Cioè quello che... Sicuramente sì, però attenzione a non cadere in un errore compiuto in passato, cioè il fatto che non basta, a parte il fatto che non ci sono risorse, ma comunque non basterebbe dare una spinta ai consumi per far ripartire l'economia, perché risucchieremmo importazioni, quindi una grossa parte di questo andrebbe, diciamo, in produzione altrui, e quindi bisogna innescare un circolo virtuoso tra esportazioni, investimenti, occupazione e quindi consumi. Le misure sono quelle di cui abbiamo parlato poco fa, quindi è sicuramente vero che la domanda interna è debole, però come, diciamo, farla ripartire è altrettanto, ecco, per essere ancora più espliciti, per essere ancora più espliciti, visto che veniamo dagli interventi di Moretti, di Squinzi sulle infrastrutture, se ho ben capito tu dici, se tu dai solo un vantaggio, diciamo, sul potere d'acquisto, io poi acquisto quello che voglio e acquisto anche molte merci fatte all'estero, adesso traduco in maniera un po' prosaica, e rischio di avvantaggiare la componente delle importazioni senza un automatico beneficio per la nostra produzione interna. Altra cosa, se io decidessi di utilizzare quei soldi per esempio per investimenti di altro genere, infrastrutturali, chiedo? Sì, assolutamente sì. Cioè meglio costruire una pista o una stazione ferroviaria in più, piuttosto che dare semplicemente la possibilità di aumentare il potere d'acquisto, che poi va a dirigersi chiaramente in qualunque tipo di merce, non è che uno deve per forza, non siamo in autarchia, prego. Certo, attenzione, quello che diciamo è anche mettere fondi là dove ci sono progetti già cantierabili, mm-hmm. o addirittura progetti già avviati, in modo da stimolare immediatamente la domanda interna. Se ci mettiamo a discutere su nuovi aeroporti, su nuove diciamo infrastrutture di cui appunto c'è solo il disegno generale ma non il progetto, quei fondi rimarrebbero nel cassetto a lungo. Mi sembra che l'impegno principale in questo momento sia mobilizzare tutte le forze per sostenere questi flebili segnali di lento recupero. Sì, e quindi appunto progetti lì, basterebbe guardare quello che il CIPE stanzia rispetto ai progetti avviati, progetti già cantierabili, magari già cantierati per alcuni versi, ma non finiti, piuttosto che progetti nuovi. E ancora, per molti mi chiedono, ma allora il cuneo fiscale avrebbe un altro vantaggio, perché crea un minor costo, tra virgolette, del lavoro anche per l'impresa, è un vantaggio per il lavoratore dipendente. È chiaro che poi uno con i soldi in più giustamente fa quello che vuole, però c'è un vantaggio anche dal punto di vista dell'impresa, che si trova a essere tra virgolette meno gravata di oneri sul costo del lavoro. Una previsione sul prossimo mese, te la senti di farla? Di produzione industriale ma anche della nostra economia. Prossimo mese, che poi in realtà è il mese corrente. Mese corrente, scusami, hai ragione. Siamo anche già tu. Quasi a metà di febbraio. Dovremmo registrare un ulteriore incremento d'attività, giudicare l'andamento degli ordini e del giudizio delle imprese sull'attività economica. Credo diciamo che purtroppo non vediamo un'accelerazione consistente, ma appunto un graduale, lentissimo recupero di attività, e questo è un grosso guaio, perché abbiamo bisogno invece di prendere slancio il più rapidamente possibile. Grazie anche per la chiarezza in cui hai spiegato, insomma, meglio, io forzo l'analisi, ma insomma, meglio spendere un miliardo su un'opera che dà lavoro, crea lavoro e quindi crea poi anche consumi interni, ma dà lavoro in primo luogo in Italia e alle imprese italiane, che non un intervento sicuramente a pioggia, ma anche solo ed esclusivamente sui consumi. Lo dico traducendo, per esempio, se uno proponesse di abbassare l'IVA, sì, probabilmente fa ripartire un po' i consumi, fa ripartire anche i consumi di beni stranieri. Se io faccio un'infrastruttura in Italia, ottengo un vantaggio competitivo per il nostro paese, in primo luogo, o se completo un'infrastruttura. E il lavoro che genero, lo genero tutto in Italia, o quasi tutto, diciamo, in Italia. Grazie al direttore del Centro Studi Confindustria. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo molti messaggi giustamente anche su un tema che approfondiremo nella seconda ora, cioè che cosa capitò a novembre del 2011, o meglio nei mesi precedenti. C'è anche un'intervista dell'ex ministro Tremonti, ma soprattutto un'analisi di Alan Friedman. Allora, fermo restando che la situazione è arrivata a un livello di precipizio, l'abbiamo raccontato in tutti i modi, io su una cosa sono molto d'accordo con l'ex ministro Giulio Tremonti, devo dirlo in maniera molto esplicita, non ho nessun problema a dirlo, l'abbiamo criticato su altre cose, e cioè che l'Italia potrebbe avere un po' più di coraggio, e vale anche per il governo Letta, perché è vero che tu non reggi con uno spread a 5,60, non reggi con titoli di Stato a 10 anni che vanno oltre il 7% e con una curva dei rendimenti che è più alta 5 anni che 10 anni, a significare che non c'è nessun orizzonte per il paese nel medio e lungo termine, Però c'è una frase che io trovo particolarmente significativa di Giulio Tremonti, quando dice: lei ha mai visto un debitore che fallisce e un creditore che sopravvive? Ecco, forse l'Italia, da un punto di vista politico, potrebbe anche spiegare in maniera più chiara all'Europa che se poi il debitore Italia dovesse fallire, beh, insomma, saltano anche tutti i vari creditori, cioè Gran Bretagna, Germania, Francia, cioè che hanno pieni di botte e BTP italiani. Nel senso che non è che il nostro eventuale, di cui non si parla adesso, per carità, fallimento, sarebbe stato fine a se stesso, diciamo così, fallivamo solo noi e le banche creditrici estere, alle banche creditrici estere non capitava nulla. Per cui questo argomento, a livello soprattutto politico, a mio avviso, potrebbe essere portato anche in Europa, cioè attenzione che poi la tenuta dell'Italia è la tenuta dell'intera area euro. Occupiamoci di borsa adesso. Invariata la chiusura a Milano, più 0,20 Parigi, meno 0,1 Francoforte, più 0,22 Londra, meno 0,1 l'America. Oggi borse molto molto piatte. Andiamo sui titoli però. Bene Buzzi Unice in più 4%, bene Ferragamo più 2,5%, e poi Monte dei Paschi più 2,30%. Eleonora Micheli, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Su Monte dei Paschi ci sono anche le voci di un interessamento del fondo del Qatar, no? Perché la Fondazione Monte dei Paschi ha detto che ha contatti con soggetti internazionali. Eleonora. Sì, con soggetti esteri, e il tempo per vendere stringe sempre più, perché ricordiamo che a partire dal 12 maggio partirà l'aumento di capitale, ovviamente sarà possibile la costituzione di un consorzio di garanzie per la fondazione, può partire proprio dal 12 maggio l'eventuale aumento di capitale, quindi poi vendere in sede di aumento di capitale risulta più difficile, per questo era stato rinviato. Oggi comunque il Messaggero scrive che potrebbero essere interessati a un 15-20% della quota della fondazione, che ricordiamo ha circa il 33% delle azioni di Banca MPS e gli emiri del Qatar attraverso il fondo sovrano. È da vedere tuttavia quale sarà il prezzo che metteranno sul piatto. Sempre secondo il Messaggero sarebbero disposti a mettere sul piatto un prezzo che non si discosta molto dai valori di borsa, ma la fondazione punterebbe a 0,2 euro. Comunque il Qatar sarebbe pronto a sottoscrivere anche nuove azioni in sede di aumento di capitale fino a salire al 25% e diventare in pratica il nuovo azionista di riferimento. Vediamo che succederà nelle prossime settimane. Di fatto è l'unica banca che oggi praticamente è andata su, perché invece le altre banche, a parte il Banco Popolare più 0,63%, sono risultate abbastanza deboli. Sì. Altro Buzzi Unicem, ci sono novità? Buzzi Unicem ha dato i conti preliminari del 2013, la redditività è migliorata, questo è piaciuto molto ovviamente agli analisti, che così hanno espresso giudizi molto positivi, e il risultato è questo più 4% in borsa. Invece oggi è debole il settore energia, sono usciti dei dati sui consumi elettrici a gennaio che risultano in calo, non so, attenzione anche qui. Chiaro che i consumi elettrici sono da sempre un indicatore sull'attività economica, però è stato un gennaio anche particolarmente mite e, come sanno anche i sassi, piovoso, ma insomma, Eleonora. Poi le azioni con un colpo di coda, esatto, sul finale poi si sono riprese. Diciamo che durante la seduta erano abbastanza deboli, perché appunto i consumi elettrici hanno registrato un calo del 4%, meno 2,5% al netto del rialzo della temperatura, dell'effetto temperatura e anche dei giorni lavorativi. Comunque evidentemente c'è stato un calo, perché d'altronde se cala il PIL, se cala l'attività. Detto questo, su alcuni titoli del settore rimane il focus. Ad esempio A2A ha visto che la società della società sarà venduto il 5% del capitale, messo in vendita dai comuni di Milano e di Brescia, quindi è tutto da vedere cosa accadrà. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dicevo, Mediaset, Telecom e Banca Profilo. Vai. Sì, Mediaset ha vinto i diritti per la Champions League a partire dal 2015 in esclusiva, fino al 2015 saranno gestiti da Sky, ma al di là di questo si sta pensando a cosa succederà nel settore premium, il settore dove vanno in onda anche le partite di Champions League, nel senso che la società già nelle scorse settimane ha indicato che sta studiando di integrare le proprie partecipazioni nella pay TV italiana e in quella spagnola, di costituire poi una new co da aprire a un eventuale nuovo socio, e secondo le ultime indiscrezioni il nuovo socio sarebbe proprio, potrebbe essere proprio Rupert Murdoch, che pare abbia manifestato interesse. Rupert Murdoch che ricordiamo controlla Sky, quindi evidentemente Sky anche nella Champions League potrebbe uscire dalla porta e rientrare dalla finestra, chi lo sa, è tutto da vedere. Di sicuro oggi intanto i titoli hanno segnato questo più 1%, sia sulla speculazione che succeda qualcosa sul settore premium e quindi entri un partner, si parla comunque di interesse anche di Al Jazeera ad esempio, e ci sono anche interessi da parte di altri gruppi oltre ovviamente Murdoch, e sia su il fatto che la società si è aggiudicata i diritti TV per la Champions League a partire dal 2015. Ancora migliori e peggiori in assoluto, oggi Fintel Energia più 22,90, Best Union più 15,60, Bastoggi di nuovo più 14,80, Gabetti più 13,40, Stefanel più 9, appunto Banca Profilo. Banca Profilo sì, continua ad andare molto bene, da inizio anno i titoli hanno segnato un progresso attorno al 60%, accelerando soprattutto nelle ultime giornate, prima sull'attesa della presentazione del piano industriale, poi dopo anche la presentazione del piano industriale che è piaciuto molto alla società, alla comunità finanziaria, un piano industriale che punta molto sulla crescita, per la crescita delle masse gestite ed un eventuale crescita attraverso piccole acquisizioni. E i peggiori invece: gruppo Green Power meno 6,12, Valore Italia meno 10, Seat Pagine Gialla meno 5,50%. Grazie a Eleonora Michele, Radio Colle, sulle 24 ore. Noi torniamo invece a occuparci di imprese, in questo caso di una norma che, per come la capisco io, mi sembrava di civiltà, ma nemmeno giuridica, di civiltà fiscale, di civiltà e basta. E cioè lo stop alle cartelle di Equitalia per le aziende che vantavano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Era un emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle, ripeto, mi sembra di civiltà, cioè tu aspetti da mesi, da anni in molti casi, i soldi della pubblica amministrazione, ti vedi recapitare una cartella di Equitalia, almeno la blocchi finché non hai i soldi. Uno potrebbe andare a pensare anche a una compensazione, ma non voglio arrivare a tanto, perlomeno alla sospensione. In realtà, nonostante l'emendamento proposto dal Movimento 5 Stelle lo scorso mercoledì 5 febbraio fosse stato approvato nella Commissione Finanze e Attività Produttive della Camera, è saltato. Non ha retto infatti al passaggio a Montecitorio l'emendamento dei 5 Stelle. Io vorrei capire perché, sulla base di quale obiezione. Lo chiedo a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Allora, a me, ripeto, sembra, oltre che una norma di buonsenso, anche di civiltà. Tu aspetti da mesi, da anni, il pagamento della pubblica amministrazione, c'è una procedura di infrazione, abbiamo, mi sembra, 60 giorni di tempo per metterci in regola, altrimenti saranno 3-4 miliardi di euro di multa, e ciò nonostante blocchi un emendamento sulla base di quale criterio? Allora, i lavori sono in corso, nel senso che proprio in questi minuti mentre parliamo si sta esaminando un'ipotesi alternativa, che è un ampliamento delle forme di compensazione tra i crediti e i debiti fiscali. Adesso vedremo che cosa succederà. Qui gli ostacoli sono sostanzialmente due. Prima di tutto si parlava di uno stop temporaneo del 2014, appunto una misura di minima civiltà fiscale occidentale, chiamiamola così più in generale, per chi ha debiti, per chi avanta crediti nei confronti della pubblica amministrazione che siano pari o superiori al debito che lui ha. Cioè, se la pubblica amministrazione mi deve più soldi di quelli che io devo a lei in forma di, appunto, tasse contestate da cartelle eccetera, si stoppava tutto. Ora si immagina una forma di compensazione. Qui però, andando alla sostanza, i problemi sono due. Uno, l'esito appunto di questo lavorio che c'è in corso proprio in questi minuti in Parlamento, che cosa succederà. Ma soprattutto, sia nella versione originaria sia nella nuova versione che si sta approvando, che si sta esaminando adesso, si prevede che entro 90 giorni ci sia un decreto del Ministero dell'Economia di concerto con questo, con quello e quell'altro, per stabilirne le modalità applicative. E noi sappiamo che è lì il problema fondamentale, perché uno stop, vista la grande quantità dei debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese, uno stop, diciamo, più o meno generalizzato alle cartelle, alla riscossione delle cartelle arrivate a chi vanta crediti dalla pubblica amministrazione, farebbe crollare il gettito. Questo è il problema. Cioè, la pubblica amministrazione ha troppi debiti per essere civile. L'ho capito, però non si può andare avanti così, nel senso che allora dite che non ci sono i soldi, non so. Vabbè, quindi le modalità, nelle modalità applicative, sempre che questo lavoro che è in corso in questi minuti porti a una qualche conclusione, le modalità applicative poi della conclusione che sarà trovata sono il vero nodo, il vero problema, perché appunto la morale della favola è che la nostra pubblica amministrazione ha troppi debiti per essere civile nei confronti dei suoi creditori. Scusami, da come la capisco io, però magari ne facciamo anche dopo il GR, a questo punto poi ci beccheremo anche la multa, nel senso che in tutto, se non riusciamo nemmeno a quella arrivare... è un'altra partita, e c'è la procedura di infrazione, sarà difficile da superare, perché noi abbiamo fatto tutti i meccanismi per sbloccare i vecchi debiti, ma nulla per i prossimi, ma nulla per quelli attuali, perché i vecchi debiti si creano per delle ragioni che ci sono ancora. Esatto, e quindi come curare, diciamo, solo la parte passata della malattia. E poi il dato di oggi su Sole 24 Ore: e la pubblica amministrazione taglia 100 miliardi di investimenti. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Dunque, Gianni Trovati ci ha spiegato che adesso il riferimento era alla norma, all'emendamento voluto dal Movimento 5 Stelle, per cui in sostanza veniva previsto lo stop alle cartelle di Equitalia per le imprese che vantavano crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Norma civile, civilissima, mi sembra quasi il minimo. Però, come ci ha spiegato Gianni Trovati, la ragioneria dello Stato ha fatto più di un rilievo dicendo, adesso la faccio in maniera molto spiccia, dicendo attenzione, qua saltano le entrate fiscali, perché noi non siamo in grado di pagare tutti i crediti e rischiamo di non avere entrate fiscali. Detto questo, molti ci chiedono di capire meglio quale sia il tentativo di, non vorrei usare un brutto termine, ma insomma di escamotage, di venirne fuori, di salvare capre e cavoli da un lato, e dall'altro come questo si inserisce in quanto voi scrivete oggi come Sole 24 Ore, ossia gli investimenti della pubblica amministrazione sono stati tagliati di 100 miliardi, e poi visto che qua si prospetta anche una multa per i ritardi nuovi, non i ritardi vecchi, i ritardi nuovi nel pagamento della pubblica amministrazione. Allora, il tentativo su cui si sta lavorando è un ampliamento dei meccanismi di compensazione tra i crediti e i debiti fiscali, che è un meccanismo che è già partito grazie alla certificazione telematica. Cioè, se io ho un credito nei confronti della pubblica amministrazione, c'è questa piattaforma telematica del Ministero del Tesoro che sulla base di certi parametri, insomma, mi certifica il fatto che io ho un credito nei confronti della pubblica amministrazione. Quindi c'è la possibilità si sta studiando la possibilità di ampliare i meccanismi di compensazione. Ripeto, però, qualunque sia la situazione, la soluzione che si troverà, il problema è legato alle modalità attuative direttive che devono essere stabilite con decreto, il che non è un vezzo da burocrati, ma perché poi la ciccia vera sta nel decreto attuativo. Se il decreto attuativo, qualsiasi sia la soluzione trovata, mi limita molto le possibilità, cioè i parametri per i quali io posso accedere a questo meccanismo di stop o di compensazione, chiaramente l'effetto del meccanismo si affievolisce. E noi temiamo che comunque anche in sede applicativa, sempre che non salti tutto prima, perché in Parlamento ormai è un Vietnam, ma come dire, se si arriva a una soluzione normativa, che poi il decreto applicativo restringa molto i parametri. Perché? Perché il debito, i debiti commerciali, chiamiamoli così, della pubblica amministrazione sono una realtà talmente ampia e variegata che interessa tantissime centinaia di migliaia di imprese, piccole imprese, tutti i fornitori di beni e servizi della pubblica amministrazione, e di conseguenza non si può dare un tana libera tutti, perché questo fa crollare il gettito fiscale. Tanto più, e qui mi ricollego alla seconda parte della domanda, che appunto i meccanismi per velocizzare i pagamenti, quindi regole del patto di stabilità eccetera, sono gli stessi che hanno creato il maxi problema degli arretrati che ci troviamo ad affrontare, per cui i tempi di pagamento sono molto più lunghi dei 60 giorni che le nostre norme prevedono, e la procedura di infrazione europea è in arrivo. Sì, attenzione che quello ha un costo complessivo, ce l'ha spiegato il vicepresidente della Commissione Europea Tajani, di tra i 3 e i 4 miliardi di euro. Ha ragione anche un imprenditore. Allora diamo altri vantaggi alle imprese che aspettano di essere pagate dalla pubblica amministrazione, non so, sulla burocrazia. Qualcosa si deve inventare. Tu segnalavi appunto che il tentativo è quello appunto di arrivare alla compensazione del credito verso lo Stato. Ad ampliare la compensazione. Ampliare la compensazione e non bloccare le cartelle di Equitalia. Vabbè. Speriamo che sia una compensazione vera innanzitutto. Grazie a Gianni Trovati. Grazie del Sole 24 Ore. E adesso, a proposito di soldi e tasse, a parte che c'era su questo anche una dichiarazione del presidente della Lombarda Rocca, proprio sul credito alle imprese e i crediti che vantano, però magari la facciamo ascoltare anche domani. Invece, in tema di fisco e tasse, ci spostiamo in Svizzera. Chiaramente la notizia di cronaca è l'esito del referendum, 50,5% dei voti al sì all'introduzione di quote contro l'immigrazione di massa nel paese. E hanno interesse per un altro aspetto, c'è la trattativa in corso con l'Italia e in generale con l'Unione Europea per quello che riguarda l'accordo sui capitali lì illecitamente esportati. Allora, sì, ne abbiamo parlato tutto il giorno, chiaramente Radio 24, un paese spaccato in due, la Svizzera, i cantoni francofoni più filoeuropei, le grandi città nel campo dei perdenti, mentre i cantoni di lingua tedesca e il Ticino hanno votato a favore dell'iniziativa. Tra l'altro il canton Ticino, italofono, ha registrato la più grande percentuale di sì, a quota 68,2%, però l'esito del voto ricusa l'accordo fra Unione Europea e Confederazione Elvetica del 99 sulla libera circolazione dei lavoratori, che è legato ad altri 6 accordi bilaterali tra l'altro da una cosiddetta clausola ghigliottina, cioè se su uno di questi 6 accordi decade, dopo 6 mesi anche gli altri decadono. Sono accordi che riguardano il trasporto aereo, le merci passeggeri, il commercio agricolo, i requisiti di conformità, gli appalti pubblici. Il governo svizzero ha però 3 anni di tempo per tradurre il voto popolare del referendum in leggi, quindi ancora non è decaduto quello relativo all'immigrazione dei 6 accordi. Dura la risposta dell'Unione Europea. La Commissione si è detta rammaricata del fatto che un'iniziativa per l'introduzione di limiti quantitativi all'immigrazione sia stata approvata da questo voto, va contro il principio della libera circolazione delle persone tra Unione Europea e Svizzera. Lino Terlizzi del Sole 24 Ore in collegamento con noi da Lugano. Buonasera Lino. Buonasera. Ecco, al di là dei 6 altri accordi che comunque sarebbero un problema, questo rischia di compromettere anche la trattativa tra l'Italia e poi in generale dell'Unione Europea sul pagamento delle tasse per i capitali lì illecitamente esportati, cioè di raffreddare tutti i rapporti con i paesi dell'Unione Europea? Diciamo, non c'è un legame diretto ovviamente con il negoziato fiscale con l'Italia, però effettivamente era un negoziato già abbastanza complicato ed è chiaro che questo segnale, che dal punto di vista politico, diciamo così, complessivo, certamente per quel che riguarda i rapporti tra i paesi non facilita, questo mi sembra abbastanza chiaro. Dopodiché si può anche fare ricorso a ulteriori risorse per cercare di tenere comunque i negoziati fiscali con l'Italia e per cercare di tenere comunque un rapporto con l'Unione Europea che sia di un certo livello, e questo sarà lo sforzo che verrà fatto sia dal governo svizzero, che ricordiamo era contrario a questa iniziativa, così come la maggioranza del Parlamento e così come tutte le associazioni delle imprese elvetiche e i sindacati. Quindi è chiaro che il governo elvetico è un po' tra l'incudine e il martello e cercherà di tenere in piedi i negoziati sia con l'Italia, specificamente quelli fiscali, sia con l'Unione Europea per cercare di trovare un nuovo equilibrio. Sì, su questo abbiamo visto anche, è stato ospite, lo ricordo, da Simone Spezia, Effetto Giorno, Paolo Beltraminelli, che è il Presidente del Consiglio di Stato del Ticino, il governo del Ticino, ha detto effetti immediati no, duro però il Ministro degli Esteri tedesco Steinmeier, che ha detto la Svizzera si danneggia da sola economicamente, vive di scambi con i paesi europei. Però insomma, entro tre anni questo referendum deve essere legge e a quel punto decadrebbero anche gli altri 5 accordi, Lino, io così la capisco. Sono più di 5 effettivamente e sono accordi bilaterali economici importanti. Lì dipenderà dall'atteggiamento e del governo svizzero, cioè come si rapporterà, come comunicherà con Bruxelles, e anche da parte dipenderà da Bruxelles, perché effettivamente Bruxelles ha la possibilità di dire no, se non accettate la libera circolazione così come era prima, noi facciamo decadere anche gli altri. È una possibilità che c'è, bisogna vedere se l'Unione Europea poi avrà interesse davvero a fare così, però sulla carta questa possibilità c'è. Risentendo della lunga recessione, il rapporto tra i crediti in sofferenza e il totale dei prestiti ha raggiunto il 9,1% lo scorso dicembre, quasi 7 punti percentuali in più rispetto alla fine del 2008, e per i prestiti alle imprese il rapporto è passato dal 3 al 13%. Le necessarie rettifiche a fronte del deterioramento della qualità dei prestiti incidono sulla profittabilità delle banche. Nei primi 9 mesi del 2013 hanno assorbito 3/4 della redditività operativa. Il rendimento del capitale e delle riserve è risultato particolarmente basso. In Italia il mercato degli attivi deteriorati rimane poco sviluppato. Alcune transazioni concluse di recente segnalano interesse da parte di investitori specializzati nella gestione di queste attività. Vanno nella giusta direzione interventi, quali quelli in corso presso alcune banche, volti a razionalizzare la gestione dei crediti deteriorati con la creazione di strutture dedicate in grado di aumentare l'efficienza delle procedure e la trasparenza di questi attivi. Interventi più ambiziosi, da valutare anche nella loro compatibilità con l'ordinamento europeo, non sono da escludere. Possono consentire di liberare a costi contenuti risorse da utilizzare per il finanziamento dell'economia. Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel corso della 20ª edizione del Forex, Assium Forex, diciamo, il congresso più importante per tutti gli operatori dei mercati finanziari. Professor Alberto Quadrio Curzio, economista e editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, lei che è un grande conoscitore del sistema economico, quella che si chiama in gergo economia reale italiana, ma anche del mondo bancario, dei rapporti tra i due, mi dica una cosa: Fermo restando che molti imprenditori mi stanno proponendo che anche la pubblica amministrazione faccia una bad bank per i crediti che non riesce a pagare. Vabbè. Ma insomma, poi arriviamo alla bad bank. Ma come se ne esce? Perché le sofferenze bancarie hanno toccato quota 156 miliardi a dicembre. E le banche dicono, vedete, abbiamo difficoltà a riavere i prestiti che abbiamo effettuato, sempre di più. Dall'altro lato però a dicembre continuano a calare i prestiti, soprattutto alle imprese, tant'è che quelle e le famiglie hanno fatto meno 1,2%, quello alle imprese meno 5% a dicembre rispetto all'anno prima, certo. E i tassi praticati, nonostante i tassi siano i livelli minimi, per i prestiti superiori a un milione sono anche un po' aumentati, al 2,82% contro il 2,76%. Come se ne esce? Con la bad bank, così le banche saranno più libere di prestare soldi se mettono da parte le sofferenze? Ma come ha detto il governatore Visco, non è quella una ipotesi da escludere, anche se lo stesso governatore lo ha fatto con estrema cautela e in estremo garbo. Anche perché bisognerebbe vedere chi costituisce questa bad bank, chi la fa funzionare, dove si prendono le risorse e via discorrendo. Quindi è un accenno, è un'apertura, ma da qui a costituire la bad bank il passo è ancora lungo. E io credo che allo stato attuale molte banche abbiano fatto emergere prepotentemente tutte le sofferenze a fine anno, anche in previsione della Asset Quality Review, che andrà a controllare con estrema oculatezza quali sono i crediti deteriorati. E se le banche poi non appostano adeguatamente i crediti deteriorati, poi arrivano delle sanzioni non da poco. Quindi lei dice non è casuale che emergano tutti questi crediti deteriorati, cioè difficilmente esigibili o incagliati, appunto, o che uno non rivedrà più. Ecco, mi dica. Può essere un'accentuazione. Però comunque il dato è lo stesso, un dato impressionante, perché avere un 28% dicembre su dicembre, considerato che il dicembre su dicembre del 2012 era al 17,9, non è una cosa da poco. No, ma questo va detto per massimo rispetto per la difficoltà delle banche. Va. Però mi dica una cosa. Poi domani magari faremo una puntata sulla bad bank, abbiamo varie dichiarazioni raccolte dalla nostra Deborah Rosciani con Ghizzoni, con Federico Ghizzoni, il numero uno di Unicredit, con Fabrizio Viola del Monte dei Paschi, con Alessandro Profumo. Però perché io come banca dovrei aumentare i miei prestiti solo perché creo una bad bank dove faccio confluire i vecchi prestiti che non riesco più a ottenere? Cioè, una volta che mi sono scottato, vabbè, la bad bank è un modo per avere un bilancio migliore mettendo a mio avviso la polvere sotto il tappeto, però perché dovrei ripartire a finanziare l'economia? La domanda è più che pertinente, perché la ripartenza dell'offerta di credito dipende anche dalla ripresa dell'attività produttiva, che rende le imprese più solide nell'assunzione del credito stesso. Il fatto di togliere le sofferenze, di conferirle e quindi di poter migliorare la situazione patrimoniale, poi bisogna vedere in qual misura vengono pagati questi crediti deteriorati, contribuisce a dare una pulizia che comunque serve per rendere più evidente la situazione della banca sul mercato. Però di per sé la soluzione ideale sarebbe stata quella di essersi fatti dare i soldi dalla European Stabilization Mechanism, ESM, così come ha fatto la Spagna, usando quel grande prestito per fare pulizia delle sofferenze, o meglio dei crediti deteriorati delle banche. Cioè, lei sarebbe dell'idea, lei sarebbe dell'idea di farsi aiutare dall'Europa a questo punto? Perché gli ESM è quello che la Spagna ha usato, sì, certo, dico, è quello che la Spagna ha usato per il casino che aveva delle HX, cioè delle casse di risparmio locali, soprattutto, e ha chiesto un aiuto. Lei dice, piuttosto che fare la bad bank, in cui ok, vedo un bilancio più pulito perché non ha dentro tutti i prestiti che non ti ritornano, e capisco allora come viene gestita la banca in maniera più corretta, era meglio chiedere un aiuto e un prestito ponte all'Europa? fosse stato chiesto al momento opportuno, io dico di sì. Adesso mi pare un po' tardi per chiederlo. Tra l'altro la Spagna addirittura non solo l'ha avuto, ma c'è stata recentemente una dichiarazione dell'amministratore delegato di questo fondo europeo dicendo che ormai la Spagna è a posto e alla scadenza prevista incomincerà a restituire il prestito. Mi pare difficile in questo momento fare una richiesta di quel tipo perché la situazione di emergenza non c'è più. Almeno a scala euro non c'è più, a non quel tempo più. C'era. Chiarissimo il suo ragionamento, grazie al professor Alberto Quadrio Curzio, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani cercheremo di capire cos'è la bad bank, la battuta in cui tutto è un po' più brutto, i mobili, il bancomat, l'ingresso, anche chi ci lavora è solo una battuta, il tema è delicatissimo invece. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.